noi siamo partiti dalla nostra più grande paura, che è quella che una volta che potremmo tornare alla nostra vita più o meno normale, la paura dell'utilizzare il mezzo pubblico, di utilizzare altri tipi di trasporti, mi immagino anche la bicicletta, sia così grande che tutti rimonteranno sulle proprie automobili per sentirsi protetti all'interno dell'abitacolo, insomma. E quindi su questo abbiamo iniziato a ragionare, su quali possono essere le possibili alternative per tenere, insomma, il punto sulla mobilità sostenibile alternativa, che è fondamentale in questo periodo. L'abbiamo visto anche rispetto ai dati della qualità dell'aria che stiamo vedendo in queste settimane, insomma, ci siamo tutti accorti, e tutti gli studi degli enti preposti, in primis ISPRA, ci hanno dimostrato come questo lockdown, questa immobilità del trasporto e anche delle aziende ha comportato una riduzione tra il 50 e il 70% degli ossidi di azoto in pianura padana e un abbattimento tra il 5 e il 7% delle emissioni di CO2 e gas climalteranti. Quindi, insomma, sarebbe la situazione perfetta se non fossimo costretti a stare in casa. Quindi quello che noi diciamo è: proviamo in queste settimane in cui siamo costretti a casa a pensare alla mobilità del futuro, visto che abbiamo questa opportunità di fermarci, di ragionarci. Nel concreto, quali potrebbero essere appunto alcune misure? Allora, il ragionamento che abbiamo fatto noi è: innanzitutto bisogna favorire il ritorno sul trasporto pubblico senza accalcarsi. Quindi le possibilità che vanno in questa direzione sono alcune. Una è rendere flessibili gli orari di lavoro in modo tale che non tutti si spostino allo stesso orario una mattina e non tutti tornano a casa allo stesso orario una sera, aggiungendo anche il telelavoro, che in queste settimane ci pare stia funzionando. Quindi cercare di ridurre gli spostamenti che non sono necessari e cercare di contingentare gli ingressi in ufficio o al luogo di lavoro in orari differenti, in modo tale che il trasporto pubblico non sia mai troppo affollato, magari con un aumento anche delle frequenze negli orari più di punta, in modo tale da avere un trasporto pubblico accessibile a tutti. Questo per quanto riguarda il trasporto pubblico. In parallelo a TPL, il classico autobus, treno, eccetera, eccetera, crediamo che la sharing mobility, nello specifico il car sharing, avrà, insomma, l'occasione di diventare un mezzo di trasporto alternativo alla nostra automobile. Quindi quello che diciamo è: puntiamo tanto sulla sharing economy, quindi non la necessità di possedere un'automobile, ma di utilizzarla quando ne abbiamo realmente bisogno, pagando poi una cifra che, se andiamo a farci dei conti in tasca, ci fa risparmiare anche rispetto al possesso dell'auto, che per un mese e mezzo stiamo tenendo parcheggiata sotto casa, continuiamo a pagare il suo possesso, ma inutilmente, perché non la possiamo utilizzare. E l'altro grande passaggio è quello di incentivare la mobilità attiva e la mobilità dolce. Parliamo di bicicletta sostanzialmente. I paesi del nord stanno già andando in direzione di dire: se dovete spostarvi, fatelo in bicicletta, perché è il mezzo più sicuro per evitare il contagio. Il distanziamento sociale delle bici è assolutamente perfetto, in più ci tiene anche in forma e lontano da eventuali problemi di salute. Quindi iniziare a ragionare su piste ciclabili, che in questa prima fase possono essere provvisorie, bastano delle strisce sulla strada con dei distanziatori, per poi renderle nel giro di breve piste ciclabili vere e proprie. Togliamo, diciamo, spazio alle automobili private e ridiamo spazio alla bicicletta privata, alla bicicletta in car sharing, alla bicicletta elettrica, la micromobilità che tanto piace in questo periodo. Quindi, insomma, la nostra idea è quella di cercare di ripensare le città per togliere lo spazio all'automobile e invece favorire lo spostamento. Non siamo obbligati a usare l'auto per spostarci, ma la nostra necessità è quella di spostarci, quindi cerchiamo di farlo nel modo più sostenibile e anche attento possibile. Questa crisi sanitaria sarà anche una crisi economica. Ravvisate il rischio che, finita appunto l'emergenza, scatti quello che è un po' uno stimolo pavloviano, quello di dire: costruiamo grandi opere per rilanciare l'economia? Sì, il rischio c'è, è forte, siamo assolutamente preoccupati. Le nostre proposte vanno proprio nella direzione di cercare di sfruttare i suoi finanziamenti e i soldi che ci saranno per proprio ripensare le città, quindi non grandi opere che si sono rivelate troppo spesso dei buchi neri per i bilanci pubblici, nonché opere inutili, ma invece piccole opere diffuse in grado di cambiare i nostri modelli di vita.